Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una volta a bordo della nave, il pensiero dei militari superstiti corre ai familiari. Come nei romanzi di mare sui pirati, prendono un foglio di carta, scrivono i loro 19 nomi e incalcia la pagina la frase «Siamo vivi». Sono Giorgio, vivo a Biella, ho 61 anni. Sono sposato, ho due figli e finalmente una nipotina. Se vi piacciono le storie, storie piccole e semplici, o storie piccole che diventano grandi, oggi è il vostro giorno fortunato. Sono le 16:08 minuti in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il programma E voi siete qui. Io sono Matteo Caccia e facciamo quello che facciamo tutti i giorni, cioè raccontiamo una storia. Voi sapete che quello che chiediamo è un episodio della vostra vita, qualcosa che racconti qualcosa di voi, che sia piccolo o che sia grande. E ogni tanto capita che ci arrivi a voi siete qui, @radio24.it, una storia che segna una stagione. Ci sono, se pensate agli anni passati, noi chiaramente ci lavoriamo tutti i giorni e ci ricordiamo bene, ci sono delle storie che ti rimangono impresso. Ce n'è una per l'anno scorso, ce n'è uno o due per l'anno prima. Oggi, in questo bel lunedì di fine novembre, se la state ascoltando e se non lo state facendo in diretta, andate a scaricarvi il podcast e tenete da parte questa puntata. Oggi è esattamente una di quelle storie lì. Tra l'altro, questa storia che parla di un figlio che vuole una risposta dal padre, che parla di guerra o di un episodio della guerra e che parla anche di messaggi in una bottiglia. Ecco, vi farà dimenticare ogni preconcetto che avete sui messaggi nella bottiglia. Avete presente quell'orribile film con Kevin Costner, Le parole che non ti ho detto? Me lo ricordo ancora il titolo di quel film terribile, in cui c'è un messaggio in una bottiglia. Ecco, oggi voi dimenticherete completamente tutte quelle storie ascoltando la storia della Shanghi e del padre di Giorgio. 349-238-6666. Parliamo di messaggi che sono arrivati fuori tempo massimo, che sono stati scritti, sono stati pensati, sono stati spediti in un certo momento e sono arrivati quando era troppo tardi o non servivano più o sembrava che non servissero più. 349-238-6666. Questa storia poi in realtà ci dà, vabbè, per noi che ci ravagniamo tutti i giorni nelle storie, dà una prospettiva ben precisa, racconta come lo stesso episodio raccontato da due persone in due forme diverse cambi, vari, ma il succo sia quello. Il primo è quello di un padre che racconta la storia al figlio e il figlio ce la restituisce, lo farà poi dalla sua viva voce Giorgio più tardi. E l'altra invece è quella di un giornalista che recupera una storia e la racconta. Ma l'episodio è lo stesso. È luglio, è estate, siamo in mezzo al Mar Mediterraneo e c'è una guerra in corso. Estate del 1999. Papà, dicevi sempre di non essere un credente, ma di invidiare chi una fede ce l'aveva. Ora te ne sei andato. Io sono qui con te, ma ci separa una pietra fredda con la tua foto. E tu non puoi parlarmi. Ora però tu sai come stanno le cose. E se davvero lì dove sei esiste qualcosa, e se tu ancora esisti. Vorrei tanto che me lo facessi sapere, in qualche modo, se vuoi, se puoi. E di lui uno dei ricordi che ho è la sua mano, per esempio, il calore delle sue mani che stringevano le mie, fin da piccolo fino a quando ero più grande. Ci si capiva senza parlare troppo. Sono passati pochi giorni da questa riflessione fatta quel giorno al cimitero, quando un cugino mi manda urgentemente per posta una busta. Per capire che cosa contiene, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Dobbiamo tornare a luglio del 1943. Mio padre ha 20 anni, è imbarcato sul sommergibile Shanghi, in missione nel Mediterraneo fra Sicilia e Africa. Si trova nel mezzo di una battaglia navale e subito dopo aver silurato un convoglio inglese si ritira in immersione rapida per sfuggire agli inglesi stessi e alle bombe di profondità e alla morte. Il sommergibile però viene colpito da un siluro. L'acqua penetra rapidamente all'interno. Si chiudono le porte stagne. I ragazzi che stanno nelle parti colpite dal siluro vengono raggiunti dall'acqua e la loro giovane vita avvolta dal mare e dalle tenebre se ne va in un terribile giorno d'estate. I superstiti invece, rimasti nella zona centrale stagna, stanno lottando con gli strumenti di bordo per fare riemergere il sommergibile ferito. Dopo minuti interminabili, lentamente, molto lentamente, la torretta finalmente affiora e, aperto il portello, inizia la fuga. Uno alla volta si tuffano in mare sotto il fuoco nemico, cercano di salvare la vita. Passato un tempo che sembra non finire mai, dalla nave inglese viene calata una cima e i 19 superstiti salgono a bordo e vengono immediatamente fatti prigionieri e diretti a un campo di prigionia inglese in territorio algerino. Una volta a bordo della nave, il loro pensiero corre ai familiari e alle fidanzate, che nulla sanno e potranno sapere di loro prigionieri. Si vorrebbe poterli avvisare di quanto accaduto e dir loro di essere sopravvissuti. E come nei romanzi di mare, quelli dei pirati, prendono un foglietto di carta, scrivono i loro 19 nomi, uno per uno, e in calce alla pagina scrivono «Siamo vivi». Il foglietto arrotolato viene infilato in una bottiglia, che poco dopo viene buttata in mare da un oblò. Non ne parlava molto, no, ma è una caratteristica di quasi tutte quelle persone che hanno vissuto queste cose. Bisognava un po' chiederglielo. Lui aveva scritto un diario dove raccontava questa cosa e io l'ho scoperto che avevo più di 20 anni. Ecco, e ora possiamo tornare al 1999 e alla lettera speditami da mio cugino. La busta contiene una copia di pochi giorni prima del quotidiano Il Mattino di Napoli, che conservo come una reliquia. All'interno, a tutta pagina, la fotografia del sommergibile Ashanghi è un articolo che racconta come una ragazza, un ecologista che in quei giorni sta ripulendo un pezzo di costa siciliana, abbia raccolto una bottiglia di vetro contenente un foglio di carta che portava scritti 19 nomi. 19 persone che, dopo aver buttato in mare quel messaggio, gridano a 56 anni di distanza: siamo vivi. Questa è una storia incredibile. Questa è una di quelle storie che ogni tanto arrivano in redazione. E allora io e Tiziano ci chiamiamo al telefono e ci diciamo: ma l'hai letta quella del sommergibile? Sono storie di guerra e quindi sono storie tristi, sempre. Sono anche però storie perfette quando si chiudono come si chiude questa, a distanza di oltre 50 anni, nelle mani di una ragazza che cammina su una spiaggia e che potrebbe essere la madre, la sorella, la moglie o la figlia di tutti quei sopravvissuti che urlavano al mondo che erano ancora vivi. Abbiamo fatto un sacco di ricerche riguardo a questo episodio, quello che ha raccontato Giorgio, e tra altre cose che abbiamo trovato c'è un articolo proprio di Bruno Abbisogno del Mattino di Napoli del 24 luglio del 2000 che racconta questa stessa storia da un altro punto di vista. Il sommergibile Ashanghi, il 17 luglio del 1943, imbocca il mare dal porto di Pozzuoli. L'Italia è sicura di essere perdente, e lo sono anche i marinai. Passano 5 giorni Il 23 luglio ricorda qualche burocratico dossier e l'emozione di quattro marinai. Una nave inglese è sulla sua rotta. Voci metalliche, misurazioni senza computer, e dal comandante Mario Fiorini parte l'ordine. Fuori. Due siluri partono dalla Shanghi. Pochi secondi di tensione, la delusione di non avere fatto centro, la voglia e la forza di esorcizzare l'inevitabile risposta di morte e di violenza. È guerra. Ed è guerra anche gettare bombe di profondità. Due ne arrivano dall'alto, dall'aria, dal cielo, dal mare buono, quello su cui stare sopra, da cui ci si può salvare. Nella battaglia vincono gli inglesi. L'esplosione e quei pezzi di ferro sott'acqua si aprono. Muoiono in 45, si salvano in 19. Qualche giorno dopo la statistica del comando ne prenderà nota. Gli inglesi di sopra li raccattano come relitti, pezzi di carne tra pezzi d'acciaio. Assassini e salvatori, così è se ti salvi. Prigionieri. Ma infine, che importa, sono salvi. Sono salvi sulla nave inglese. Erano 19, giovani, forti, e sono dinanzi all'ignoto. Il rito è il solito, tutti a bordo. Sulla nave, guardati a vista, derisi, e rotta destinazione Malta. Non è lontana Malta, anche lei è nemica e amica. Si sbarca, i feriti più gravi finiscono in ospedale, lo garantisce la convenzione. Gli altri stanno bene, e allora destinazione Algeri. Lì ci sono i campi di prigionia degli alleati. Si parte senza più orgoglio, senza più onnipotenza. Il dovere è compiuto, se tutto andrà bene, sarà un profondo ricordo. Si va verso il Nord Africa. E poi, all'improvviso, di nuovo, un déjà vu. Stavolta però la scenografia è diversa, il nemico è visibile, arriva da ancora più in alto. Il nemico, poi, sono gli alleati, da qualche anno sono i tedeschi. Loro, però, sono su una barca nemica. Almeno respirano, gridano. Qualche giorno prima, invece, non l'hanno nemmeno potuto fare. Tutto inutile, la paura si rinnova. Quella di un soldato, anzi di un marinaio del sottomare, si chiama Giorgio Bergoni. Guarda i compagni e dice: ragazzi, a casa non si torna, qui moriamo tutti. Chi si ricorderà di noi? Qualcuno, forse sì. E per farlo può bastare anche solo una bottiglia. E per Carmela, l'ecologista che 56 anni dopo passeggia nelle spiagge dei dintorni di Catania, è quasi una norma trovare bottiglie. Eppure in quella bottiglia c'è uno strano biglietto, 19 nomi di uomini senza ricordo e la firma "Siamo vivi". I got a feeling that it's all going to crumble if we don't do something to save ourselves. I got a feeling that the mountain might just tumble forever into the sea if we don't find a way to help. Lay down your guns and your bombs, forget the lines that we have drawn. We have some unlearning to do right now. Your fortunes of gold, forget the things that we've been told. We won't be needing them where we're going now. Where we're going now. In the middle of the night, we wake up beside ourselves and wonder why we still feel miles apart. Be the change in the world that you wish to see. An eye for an eye leaves the whole world blind, don't you see? Lay down your guns and your bombs, forget the foolish things we're taught. Have some unlearning to do right now. Lay down your fortunes of gold, forget the lines that we have drawn. They won't do any good for anyone, for anyone. È una foto foto che arriva da 70 anni fa, quella che trovate sul nostro sito, la pagina di Voi Siete Qui, e che ci ha mandato Giorgio. Ed è la foto del suo babbo, che è giovanissimo, è in bianco e nero, è completamente sgranata, nulla a che vedere con quelle di oggi. Sono le foto di 70 anni fa, quindi si vede il volto di un ragazzo giovane, in perfetta divisa da marinaio, forse sul ponte di una nave, non si vede bene quello che c'è alle sue spalle. È una di quelle tipiche foto che fanno i commilitoni abbracciati tra di loro, però è tagliata, si vede solo lui. Ha appunto indosso la divisa blu, quella con il bel collo con le strisce bianche e un cappello in testa con scritto Marina Militare. Pronto Giorgio? Eccomi. Ciao, come stai? Ciao Matteo, sto benissimo, ho gli occhi un po' lucidi dopo il racconto, ma va tutto bene. Lo immagino, dove ti trovi? Guarda, sono nel mio studio dove ho una bella radio dove vi ascolto quasi tutti i giorni. Che studio è? Che cosa fai, Giorgio? Ma io mi occupo di arte, antiquariato, cose così. Cioè, nel senso che vendi o fai? Cioè, fai. Nel senso che No, vendo, cerco per me, per venderlo. È un po' il mio lavoro di adesso. Ok, però insomma, non è che produci, intendevo dire, non costruisci. No. È una passione nata prima come privato e poi è diventata anche un lavoro. Qual è il pezzo più pregiato che hai in studio? Ah, guarda, vedi, io non do un valore venale. Beh, vabbè, diciamo, il più pregiato per te. È un grande valore quello che mi piace. E cioè, quindi, qual è la cosa che ti piace di più? Un ritratto di mia moglie, che è stato fatto quando era bambina, da un pittore qua locale. Giorgio, invece, torniamo a questa foto. E tra l'altro, Giorgio ci ha mandato, oltre alla foto che trovate sul sito, altre due foto che trovate sul nostro profilo Facebook. Uno è un'immagine della Shanghi, di questo sommergibile, che insomma è famosissimo. E l'altra invece è un'immagine, una fotografia scattata al mattino di Napoli, che era in quella busta là che ti è arrivata. Sì, signori, che proprio quella. Ti è arrivata quel giorno. Senti, parliamo un po' del tuo babbo. Dicevi che ne parlava poco lui di questa cosa, vero? Molto poco. Guarda, io ho vissuto da ragazzo fino ad oltre 20 anni senza che mi abbia mai detto una parola su quel periodo della sua vita. E poi come è venuto fuori? È venuto fuori perché io ho scoperto questo diario. Ero un curioso in casa, prendo un cassetto, non me l'ha neanche detta lui, l'ho scoperta dal diario, hai capito? E lui non se l'è presa quando tu gli hai aperto il cassetto? No, l'ha preso come un segno del destino che era il momento che io sapessi. Quindi senti, su sta nave inglese loro arrivano in Algeria, giusto? E quanto ci rimangono? La storia è altrettanto interessante quella che viene dopo, avessimo tempo. Te la faccio brevissima. Vai. Allora, dall'Algeria, quando gli alleati sbarcano poi in Italia, i prigionieri vengono portati in Italia, in un campo di lavoro. I miei nonni erano di Taranto, e guarda caso il destino vuole che il campo di lavoro degli inglesi viene messo proprio a Taranto. Un signore che va dentro lì a fare l'idraulico vede mio papà con una barbona e gli sembra di riconoscerlo. Per tutti erano dispersi era uguale a morti all'epoca. Certo. E questo signore corre da mio nonno, che era un uomo minuto con il farfallino, suonava il violino, andava a teatro, e chiede a questo amico di mettergli una tuta, di sporcargli la faccia e di portarlo nel campo di lavoro. Quando mio nonno arriva nel campo di lavoro, vede mio padre, suo figlio, e senza potersi parlare scopre che è ancora vivo. Mia nonna, che aveva una religiosità molto meridionale, ricompone l'altarino di San Gennaro che aveva distrutto quando lui era stato dato per disperso. E poi non finisce, perché è proprio una storia, un romanzo. Una notte le donne andavano e buttavano viveri dentro al campo, sfidando gli inglesi che avrebbero potuto sparare. Certo. Uno di questi pacchi colpisce i fili di questa rete e spegne all'improvviso tutte le luci del campo. Mio padre e un gruppo di altri 8 avevano nascosto una forbice, una cesoia, riescono a tagliare la rete e fuggono sotto il fuoco degli inglesi. Lui arriva a Bari, si nasconde da sua sorella e fino al fine poi della guerra. In sostanza. Quindi c'è un seguito tanto avventuroso. Cioè, sia come comincia sia come finisce la storia della guerra vista da tuo padre. E non ti aveva mai raccontato nulla di tutto ciò? Ma no. Guarda, era un pudore, perché per lui, io ho capito anche dopo, che era una sofferenza. Lui quando mi parlava della guerra parlava delle persone, di quelli che erano vicino a lui, di chi è stato con lui. Che cosa ha fatto poi nella tua vita tuo papà? Ha fatto tante cose, ha fatto il rappresentante, ha fatto il sindacalista, ha fatto... aveva un concetto comunque di giustizia sociale molto profondo e una buona parte della sua vita l'ha dedicata a quello. E tu invece prima, e poi ti devo salutare purtroppo Giorgio, sì, tu prima di fare quello che stai facendo adesso cosa hai fatto nella tua vita? Io ero, dirigevo un piccolo gruppo di lavoro in Telecom. Ah ok. E sei, te ne sei venuto via per i fatti tuoi? Ti hanno mandato via? No, sono venuto via perché era ora, potevo andare in pensione, l'ho fatto. Giorgio, io mi sono dedicato al hobby, ecco che è diventato un lavoro. Nelle puntate come queste a me spiace non avere ancora i 15 minuti dopo che cediamo più che volentieri al nostro Oscar Giannino, perché avrei parlato con te ancora almeno un quarto d'ora, però io a questo punto ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Allora, io ringrazio voi da tantissimo, perché vi stimo e grazie. Il fatto che mi avete dato questa chance che raddoppiare questa stima. Basta con i ringraziamenti reciproci. Giorgio, ti abbraccio, ciao. Buona giornata. Ciao, grazie, ciao, a presto, ciao. E niente, che quando è così poi dovresti chiudere, non hai più niente da dire. Invece voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Fabio Cantadori. La storia di Giorgio e la storia del babbo di Giorgio potete riascoltarla tutte le volte che potete, scaricandovi, che volete e potete, scaricandovi il podcast che trovate sul sito di Radio24, su iTunes in abbonamento gratuito, su tutte le app che ci sono in giro, soprattutto su quella di Radio24, scaricatevela se non ce l'avete quell'app sul vostro smartphone. Se vi è venuta voglia di raccontare una storia, di solito succede dopo le storie belle, voi siete qui, @radio24.it. Noi siamo qui, voi siete lì, insomma ci siamo tutti ragazzi, in un modo o nell'altro. Grazie ancora, grazie soprattutto a Giorgio, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.